Oggi in scena di Marta Cagnola. Eccoci con il nostro appuntamento con Voci in Scena, oggi in compagnia di un giovane talento già molto amato dai ragazzi. In Sardegna nel 1993 e il suo vero nome è Marco. È diventato famoso nel 2014 nell'ottava edizione di X Factor. Il suo primo singolo, Sayonara, è arrivato fino al secondo posto delle classifiche italiane e ha ottenuto il disco di platino. Il suo primo album, Meditation, appena uscito, è arrivato ai vertici delle vendite. Lui è Mad. Allora, io sono un mix di stati d'animo in questo momento, perché sono stato fino adesso l'uscita comunque avverrà fra 2 giorni, quella ufficiale, e quindi sono un po' in ansia, però allo stesso tempo sono felice perché sono riuscito a raggiungere un traguardo che era il traguardo più grande per me quest'anno. Penso che se non fossi riuscito a chiudere l'album quest'anno non l'avrei presa molto bene, perché appena uscita da X Factor il mio obiettivo era subito chiudere l'album, quindi il fatto che sono riuscito a farlo mi fa stare bene, quindi sono molto positivo e fiducioso di quest'album, la voglio pensare così. Avevi l'ansia di concretizzare quello che avevi immaginato in qualche anno, immagino, non solo nell'avventura che tu definisci la più bella della tua vita? Esatto, perché già prima di X Factor comunque il mio obiettivo era quello di chiudere un progetto abbastanza ampio, quindi già prima di X Factor scrivevo, producevo. Poi ovviamente entrando a X Factor ho preso una pausa da quella che era la mia roba inedita, mi sono dedicato al programma e poi subito appena uscito ho avuto il desiderio di condividere con la gente il mio lavoro, quindi sono contento di essere riuscito a farlo. Sometimes I feel like living in a castle. Sometimes I feel like lying in the basement. Sometimes I feel like bigger than an elephant. Sometimes I'd rather be lighter than smoke. All my life I've been walking, following the river, and that river taught me how to watch the things I got around. All my life I've been feeling it as it was magic. Now that magic is what is following me all around. Running in the ocean. Sometimes I feel like my body can't bear it all. Sometimes I'd rather lay myself down. And now I just wanna let my body fall in like a waterfall. I just wanna let my body fall in like a waterfall. Uscito da X Factor ti sei trovato un sacco di pubblico, hai oltre 67.000 follower su Twitter, quindi hai persone che ti seguono con passione ancora prima di vedere e di sentire il lavoro fatto. Che rapporto hai con queste persone che ti aspettano in tutti i modi? Allora, io mi sono accorto che ho un fandom di pazzi, in positivo però, perché diciamo che la gente che mi segue è davvero attaccata alle cose che faccio, nel senso è molto molto presente, e questo mi dà molta molta più carica. Sono uno che si dà abbastanza alla gente, soprattutto in questo momento è molto importante il rapporto con i fan, perché alla fine sono loro che ti portano in alto, a prescindere dal tuo talento o meno. Se tu hai un fandom che ti supporta, allora vai ancora più su. Quindi ringrazio un sacco le persone che mi seguono e che mi fanno sentire che ci sono. Suoni internazionali, qualcuno lo twittava qualche giorno fa, ho fatto sentire il tuo disco e hanno detto bravi questi americani, cioè sono internazionale, testi di, già a partire dal titolo che è quasi un manifesto, testi, parole nei quali però tu vuoi esprimere anche un altro tipo di spessore. Esatto, quando scrivo non scrivo mai in modo materiale e dettagliato, mi piace stare molto, mi piace rimanere astratto, mi piace dare quel tocco di astratto ai miei brani, perché così quando il lettore legge i miei testi si può immedesimare in ciò che scrivo, può interpretare come vuole il brano. Quindi quando un lettore legge il mio brano può immedesimarsi in una situazione che riguarda lui, non che riguarda me. Questo è. Mountains are high but we were burning rich cups. Rivers flow hard but we were burning swim the mud. Emotions they need it, sometimes you are not good at all. But the air is so light, now we'll be waiting for that come. Mountains are high but we were burning rich cups. Rivers flow hard but we were burning swim the mud. Emotions ain't easy, sometimes you are not good at all. But the air is so light, now we'll be waiting for the gong gong. Waiting for the gong, waiting for the gong gong. Waiting for the gong, waiting for the gong gong. Gong gong gong gong gong gong gong gong. La parte visiva ti aiuta a creare quel personaggio, a crearti la tua originalità e a trasmettere quello che sei, a trasmettere la tua personalità. Infatti sono molto attaccato all'arte, perché sin da piccolo disegno, dipingo e tutto, quindi ho voluto mischiare la mia passione per l'arte con la musica, perché è una cosa che mi dà soddisfazione, che mi fa, io voglio, quando faccio musica voglio sentirmi me stesso, e mi sento me stesso solo se sono nelle condizioni giuste anche visivamente, nel senso. Ti senti te stesso, immagino, scrivendo in inglese, però una cosa in italiano te la sei concessa? Sì. Mi sono concesso un brano in italiano che è stato più una sfida personale, perché non avendo mai fatto uscire niente in italiano, nemmeno nel talent show comunque ho mai portato un brano in lingua italiana. Questa volta nell'album ho voluto portare questo brano in italiano soprattutto perché è un brano che ha per me un grosso significato, e volevo che, essendo seguito comunque da un pubblico italiano, volevo che il messaggio arrivasse, che il messaggio fosse di impatto, subito, diretto, e quindi la lingua italiana mi aiuterà mi aiuta in questo brano a far arrivare subito il messaggio del pezzo. I could stay a little bit, I could stay a little bit more. But I just wanna take a breath and keep it on the floor. Like I say, a night out to the world. Take this, say that I am here. You don't know me, have a check, no fear. You don't hear me when I attack, come here. Meet a parasite, infect you with my poison for real. You the bitter victim in the middle. This is how I fight, my words blast a bit on. Coming with a kind of flow, curse you a little. Yours the kind of face, but I is the spit on mouth. Like a vodka to terminate. I could be behind you, look at your radar. Me done no mud, no place where I stay. I ain't visit the underground, yeah, stay. now, break it out now, yeah. Break it out now, break it out now. Moves like a tiger living in a jungle. I'm a man in a struggle. Tu sei un ragazzino, sei giovanissimo, però hai un pubblico anche più giovane di te, perché poi soprattutto quelli che seguono i talent spesso sono molto giovani, ricettivi come spugne e ai quali dare poi, parli di messaggio, i messaggi giusti. Ti senti la responsabilità nel parlare a ragazzini che ti guardano con gli occhi sgranati? Un po' la responsabilità la sento, sì. Ma quello che mi ha sorpreso di più è stato che non sono solo i ragazzini a seguirmi, ma anche gente molto più grande. Però sì, penso che un artista debba essere consapevole del messaggio che vuole mandare. Il mio messaggio è positivo, nel senso, quello che voglio condividere con gli altri è un messaggio di pace, di serenità e voglio che la gente quando ascolta i miei brani si diverta e a volte lasci i problemi da un'altra parte e si goda la musica. Ti chiedo solo una cosa velocissima perché il mio tempo è scaduto. C'è tanto affetto per tutti i tuoi compagni di avventura. Ho visto anche su Instagram, su Twitter, le foto con Fedez, le foto con Lorenzo Fragola, con il quale hai condiviso l'avventura. È importante per te? Per me è importantissimo il rapporto umano in generale, soprattutto in quest'ambito. A volte è molto difficile mantenere dei rapporti personali, oltre che professionali. Però quello che mi ha insegnato X Factor è che il rapporto umano conta davvero tanto e sono contento di aver condiviso la mia avventura con persone che hanno tralasciato quella che era la parte professionale e si sono date a me più con c'è stato proprio un vero e proprio rapporto d'amicizia. È stato un bel percorso anche per questo. Ed è tutto per la puntata di oggi di Voci in Scena. Con noi c'era Mad. L'appuntamento è per domani alla stessa ora.